speranze, mondi sottostanti, gridanti, rabbia e perdono, mancate voci, indecifrabili nomi che noi, che da bambini si giocava in riva al nostro fiume, si sognava e si viveva. Ha sepolto tutto tranne l'inferno che arde ancora sottostante, che brucia vita e genera mostri, uomini affamati di vendetta e amor proprio. È giusto vivere in silenzio senza sogni. Si giocava in riva al nostro fiume, si sognava e si viveva. L'uomo faticosamente libero che comunica.